Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il colore è un mezzo per esercitare sull'anima un'influenza diretta. Il colore è un tasto, l'occhio il martelletto che lo colpisce, l'anima lo strumento dalle mille corde. Kandinsky. I colori sono parte della nostra vita, regalano emozioni e interpretano, anche quando non ne siamo consapevoli, molti nostri stati d'animo. Buongiorno da Nicoletta. In questo lunedì grigio voglio proporvi una puntata colorata. Ma vi siete mai chiesti perché e come facciamo a vedere a colori? In linea con noi abbiamo il professor Gabriele Miceli, ordinario di neurologia all'Università di Trento e direttore del centro di riabilitazione presso la stessa università. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, siamo immersi nel colore anche quando, come oggi, le giornate sembrano grigie. Eh sì, anche qui sono una giornata grigissima, eppure si percepiscono i colori. Ma lei ha detto inizialmente perché e come facciamo a vedere a colori. Sul perché la risposta è molto semplice. Quando vediamo la possibilità di vedere a colori ci permette di riconoscere gli oggetti con molta maggior facilità rispetto alla visione in bianco e nero. Basta pensare che cosa succede quando facciamo una foto della stessa immagine, della stessa scena e con la stessa definizione in bianco che nero oppure a colori. Gli oggetti li distinguiamo molto meglio nella foto a colori. Se passiamo davanti ad un arcobaleno, facciamo una foto a colori e una in bianco e nero, nella foto a colori vediamo le strisce, le zone di colore molto chiaramente. Se facciamo la foto in bianco e nero vediamo un alone chiaro e nulla di più. Quindi l'obiettivo, diciamo, da un punto di vista adattativo della visione colorata è esattamente questo, per migliorare la nostra interazione col mondo esterno. Sul come il discorso è più complicato, nel senso che il colore non esiste in realtà nel mondo esterno. Il colore è che cosa succede nel nostro cervello in risposta al mondo esterno. Quello che succede è che quando la luce colpisce un oggetto, succede che l'oggetto riflette una certa quantità di quella luce con una determinata lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda va a colpire le cellule che sono nella retina e le cellule della retina sono sensibili in maniera, diciamo, semplificando, selettiva, sì, a colori nel rosso, nel verde e nel blu. Questi colori, cioè l'azione di queste cellule della retina, corrisponde alla sensazione del colore che viene poi trasmessa a livello della corteccia occipitale, la parte posteriore del cervello, dove viene analizzata. Quindi arrivano stimoli da cellule sensibili al rosso, sensibili al verde, sensibili al blu, e qui il cervello comincia a lavorarci e comincia ad analizzare il colore, a percepire il colore. E professor Miceli, i colori non solo li percepiamo, come lei ci ha spiegato, ma riusciamo a fare di più. Siamo infatti in grado di riconoscerli. Eh sì, perché diciamo se guardassimo soltanto a che cosa riesce a fare il nostro cervello con gli oggetti colorati, resteremmo stupiti, nel senso che la quantità di colori che il nostro cervello riesce a distinguere è enorme. Parliamo di migliaia di sfumature colorate. Però poi alla fine, se da un lato il nostro occhio è in grado di dire che quei due colori sono diversi, dall'altro noi siamo in grado di dire che quei due colori sono rossi tutti e due, o blu, o verdi, o uno è rosso e uno è verde. Quindi riusciamo in qualche modo a semplificare e a generalizzare alle proprietà colorate degli oggetti che vediamo, in maniera da assegnare a quell'oggetto un determinato colore. Quindi diciamo che, per esempio, in questo momento intorno a me dei post-it, quel post-it è arancione, quell'altro è giallo, quell'altro è verde. E quindi riusciamo a categorizzare in qualche modo i colori, e questo succede sempre nel cervello, ma non più nella corteccia occipitale, nella corteccia visiva, in una zona che è localizzata all'esterno della corteccia visiva, sempre nel lobo occipitale. Blu come il cielo, verde come il prato, rosso direi come il pomodoro. Forse lei, professore, avrebbe associato a questi colori altre immagini, ma quello che conta è che tutti noi siamo in grado di associare i colori, forme e oggetti. Eh sì, perché come le dicevo, l'obiettivo da un punto di vista di evoluzione, diciamo, l'obiettivo evolutivo della visione colorata è quella di permettere un'elaborazione più accurata possibile di quello che ci circonda, e a questo punto la visione colorata è importante non solo per distinguere gli oggetti esterni, per distinguerli dallo sfondo, ma anche per distinguere un oggetto da un altro. Per fare un esempio banale, se io avessi davanti a me una fetta di prosciutto, e se quella fetta di prosciutto che dovrebbe essere rossa fosse grigiastra, io a quel punto ovviamente mi fermerei. Il colore è una proprietà che fa parte del concetto di un oggetto particolare e quindi mi permette di identificarlo e di accedere più facilmente al suo significato. Se vedo... faccio per dire una fragola e il colore di quella fragola è verde, io non raccolgo quella fragola, ma aspetto che diventi rossa, certo. Perché so che la fragola rossa è la fragola matura, quindi il colore è anche importante per questi aspetti, condizionano anche un po' le nostre scelte e a volte ci salvano. Prima di salutarla, professore, qual è il suo colore preferito? Ma è una sfumatura particolare di azzurro, il blu di Cina. Mi piacciono in genere i colori in quello spettro lì, lo spettro dell'azzurro. Buona giornata e buoni Grazie. Colori. Grazie altrettanto a lei. Ogni colore possiede una determinata capacità, diversa da quella degli altri colori, di influenzare i sentimenti. Yolande Jacobi. Azzurro. Pomeriggio è troppo azzurro. E buongiorno al dottor Claudio Widmann, psicanalista junghiano, autore del Simbolismo dei colori, Maggi Edizioni. Dottore, ciascuno di noi ha un colore preferito e lo stesso colore è capace di produrre effetti differenti nelle persone. Questa è in estrema sintesi la tesi di questo studioso svizzero, del professor Luscher, che ideò proprio il test del colore. Banalizzandola, potremmo dire: dimmi che colore scegli e preferisci e ti dirò qualcosa di te. Assolutamente sì. Il colore, come dice Luscher, come diceva anche Yolanda Jacobi nel trailer che avete mandato, il colore esercita una azione non soltanto sul cervello, come diceva il professor Miceli appena adesso, ma anche sulla psiche. Colori diversi esercitano azioni diverse. Si potrebbe semplificare con la cosa forse più evidente, dicendo che tendenzialmente rosso è stimolante e tendenzialmente il blu è acquietante, è sedativo. Questa cosa tra l'altro la conoscono bene non solo in tutta l'industria, in tutta la pubblicità, ma persino l'industria farmaceutica, dove le pastiglie, le capsule ad azione eccitante vengono tendenzialmente colorate di rosso e quelle ad azione sedativa tendenzialmente colorate di blu. Non soltanto un colore agisce su una specifica area dell'emotività delle persone, ma anche le gradazioni diverse dei colori. Abbiamo appena sentito che il nostro occhio è in grado di distinguere migliaia di colori diversi, il nostro linguaggio molto meno, pochissime differenziazioni di colore di fatto rispetto a quelle che vediamo. Però nessuno di noi scambierebbe, che so, un verde acido con un verde muschio, e naturalmente queste due cose hanno delle azioni assolutamente diverse. Sto pensando per esempio all'effetto freddo, algido, direi, che ha quel verdino tipo uffici statali, per dire, tipo vecchi uffici statali, oppure all'atmosfera di calore che hanno gli arredamenti della montagna, del verde, color verde muschio, degli arredamenti tiroresi, ma anche degli arredamenti austriaci o svizzeri, eccetera. Il punto fondamentale e la grande nucleo nucleo attorno cui gravita tutto il testo di Büscher è questo, che ciascuno di noi assume un atteggiamento diverso nei confronti di queste, aree. Sto pensando, fu interessante per esempio una volta un lavoro che feci con delle allieve, dove c'erano due giovani psicologhe, entrambe delle persone abbastanza riservate, molto, molto delicate di sentimento, eccetera. La prima aveva una grande passione per il blu scuro, che diceva quieto come il blu notte, che diceva raccolto come il blu Madonna, che diceva profondo come il blu mare, come il blu del mare, eccetera. E l'altra aveva una grande avversione per il blu, che diceva spento come e triste come il feeling blu, come il blu depressivo, che diceva isolamento come il blu meditativo in cui ci si raccoglie per meditare, eccetera. Il punto è che entrambe stavano parlando di una stessa gamma di esperienze, ciascuna con grande propensione per queste esperienze e l'altra con una grande saturazione, potrei dire, quindi con avversione per quella stessa gamma di esperienze. Vorremmo chiedere ai nostri ascoltatori di che colore avete voglia oggi, 800 24 00 24, ma prima di lanciarci in questa avventura, siamo sicuri di vedere bene a colori, di saperli distinguere? Shrek è ferito! Shrek è ferito! Oh no, Shrek morirà! Ciuchino, sto bene! Non puoi farmi questo, sono troppo giovane perché tu muoia! Solleva le gambe, gira la testa e tossisci! Chi conosce la bocca a bocca? Ciuchino, calmati adesso. Se vuoi aiutare Shrek, corri nel bosco e trovami un fiore blu con le spine rosse. Fiore blu, spine rosse. D'accordo, vado. Fiore blu, spine rosse. Fiore blu, spine rosse. Non morire, Shrek. E se vedi un lungo tunnel, sta lontano dalla luce. Ciuchino. Fiore blu, spine rosse. Fiore blu, spine rosse. Fiore blu, spine rosse. Sarebbe tutto molto più facile se non fossi daltonico. Fiore blu, spine rosse. Fiore blu, spine rosse. Resisti, Shrek, arrivo! E qui in studio con me ho il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica Prima. Fate bene, fratelli di Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Sembra quasi una descrizione simile a quella che ha fatto Dalton, che era un grande scienziato e lo stesso che ha studiato i nuclei atomici, eccetera, famosissimo, il quale scoprì di essere daltonico perché vedeva i geranei celesti invece che rosa. Dai. E fece un'analisi sul perché, non per come, eccetera. La cosa divertente è che quando morì fecero un'autopsia e per provare se era alla fine del 700, inizio dell'800, per fare una prova presero i suoi occhi, li svuotarono e poi ci fecero un buco dietro e guardarono, l'anatomopatologo guardò attraverso il buco per vedere come vedeva Dalton. E concluse che le teorie erano false perché lui vedeva i colori normali. Ma in realtà ci sono delle persone che i colori non le vedono. Ci sono almeno il 7-8% della popolazione che ha delle anomalie di percezione del colore. E questo perché le cose dal punto di vista dei colori sono estremamente complesse. Prima è stato citato il fatto che noi vediamo tramite tre tipi di cellule che sono i coni, che hanno ciascuna una sua sensibilità. In realtà queste cellule, è vero, esistono questi tipi, ma non sono uniformemente distribuiti lungo l'arco dei colori, dello spettro visibile a noi ovviamente, perché le api vedono diversamente, vedono anche in parte l'ultravioletto, per dire che i gufi invece vedono altre cose, eccetera. Quindi al nostro visibile, in realtà i colori che noi percepiamo tramite i coni sono il blu scuro, che è in realtà un violetto, viene descritto come blu, ma noi siamo sensibili al violetto. Poi siamo sensibili al verde e poi siamo sensibili al giallo-arancio. E a proposito di verde, siamo sensibili al verde, abbiamo un'abitudine col verde, il nostro numero verde è 800 24 00 24. Mi sono agganciata perché mi sono dimenticata di dirvi naturalmente che oggi, come sempre, potete intervenire raccontandoci il rapporto che avete con il mondo, come vedete i colori, perché questo dà anche degli strumenti importanti al vostro oculista. Possiamo fare una sorta di autotest, lo faremo tra poco, ma il dottor Widman è qua con noi anche per aiutarci a comprendere la relazione che ciascuno di noi ha con il colore. Per questo io oggi vi ho proposto di che colore avete voglia oggi, e soprattutto capire come la nostra quotidianità è influenzata dal colore. Noi vogliamo cercare di aggiungere in questo spazio occasione di benessere, quindi proveremo con questa puntata tutta dedicata al colore a capire come è procurarci benessere. Dottor Scialdone. Quindi questo daltonismo, si stava dicendo, e quindi in realtà i codici genetici che codificano i due principali, giallo e verde, mm-hmm. sono sparsi sul cromosoma X, quello, uno dei cromosomi del sessuali, sì. diciamo, e sono codificati da oltre 20 geni, per cui è estremamente probabile che nelle confusioni dei rimescolamenti genetici tra madre, figlio, padre, eccetera, ci sia qualche piccola anomalia di colori. Quindi le anomalie sono molto più frequenti, anche le piccole, di quelle che... Le principali sono quelle che puntano direttamente su un colore, quindi ci sono le anomalie o la perdita del colore, della sensibilità al colore rosso o giallo, diciamo, che si chiama protanomalia, e poi c'è quella a colore verde e quella a colore blu, che fra l'altro è rarissima, perché è l'unica a non essere legata al sesso. Ah, senta, il dottor Widman usa il colore come strumento di analisi, ma un oculista il colore come lo usa, e soprattutto come possiamo usarlo noi? Diciamo, un oculista lo usa soprattutto per affinare la prescrizione degli occhiali, perché l'occhio soffre di una anomalia di trasmissione dei colori che si chiama aberrazione cromatica, per cui la luce che entra dentro l'occhio è composta da varie lunghezze d'onda, e il rosso e il verde sono rifratti leggermente, a una distanza leggermente diversa, quindi arrivano più o meno davanti o dietro la retina. Quindi se l'oculista lo sfrutta nel senso di chiedere al paziente se vede meglio le lettere sul rosso oppure sul verde. Se le vede sul rosso è leggermente miope, quindi aggiusta l'occhiale in quel senso lì. Se è leggermente vede meglio un pochino il verde, vuol dire che è leggermente ipermetrope, e quindi sa che deve correggere l'occhiale in un altro senso. Quindi davanti al semaforo vediamo davanti meglio. Al semaforo è lo stesso discorso. Se io vediamo meglio il rosso o vediamo meglio il verde, esatto. L'importante è vederle. 800 24 00 24, il nostro numero verde per l'appunto. Mauro ci chiama da Roma. Buongiorno Mauro, benvenuto. Pronto? Mauro, eccomi. Ah sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Intanto complimenti per la trasmissione, grazie per avermi dato questa opportunità. Mi racconti. Dunque, lei? Allora, mi seguivo, no? Io, siccome era... Volevo fare la domanda al professore. Da diversi anni soffro di una sintomatologia inizialmente caratterizzata da crisi d'ansia con marcata somministrazione, che nel tempo ha assunto un vero aspetto di veri e propri disturbi di panico, no? Sì. Ecco, dunque, le manifestazioni progressivamente mi hanno influenzato profondamente nella vita personale e sociale, per cui si è instaurato un grave talune volte isolamento sociale. Ecco. Ma questo che cosa le dà lo spunto per intervenire in trasmissione con il colore? Mauro, le devo mettere un po' di premura perché ho i mercati, mi dica. Certo, lo spunto è legato proprio che io spontaneamente sono legato molto ai colori scuri rispetto a quelli vivaci, al di là del fatto che mi hanno prospettato di quelli con quelli vivaci sto bene, faccio fatica. Ecco, insomma, è quasi come se si vestisse, professor dottor Widman, quando siamo giù di tono, è facile che nel nostro armadio prendiamo i colori più scuri, il grigio, il nero, quasi che ci raccontino un po' che cosa avvertiamo dentro. Essere e benessere. Il nostro colore preferito, i colori che ci fanno stare bene. 800 24 00 24, ma anche, come vediamo, i colori. Abbiamo Giorgio dalla provincia di Ancona. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, una battuta, essendo oggi lunedì, peraltro che anche una giornata particolarmente nuvolosa, sentir parlare di colori davvero grazie, perché ridà un po' del colore a questa giornata, se no destinata insomma. E si è dura, è lunedì a e grigio. Male, esatto. Poi sentito il notiziario della borsa, penso che parlare di colori porta anche bene. Dai, l'abbiamo fatto apposta. Una domanda molto semplice: se qualcuno mi chiedesse che colore preferisco, direi sicuramente il blu. Di fatto poi magari, ripeto, magari amo i colori dell'estate, per cui tutte le declinazioni vivaci, e poi mi trovo a rispondere un blu, che magari è un colore di tutta altra, no? Ce lo facciamo dire dal dottor Widman. Dottore, noi capita, come ti racconto Giorgio, diciamo il mio colore preferito è, e poi magari ce ne piacciono altri e non necessariamente indossiamo quel colore o ci circondiamo da quel colore. Certo, sicuramente, ma poi il linguaggio dei colori, il linguaggio simbolico dei colori è estremamente stratificato. Il signore che stava parlando adesso e che aveva, mi è sembrato di capire, una discreta disinvoltura nel linguaggio, è stato molto brioso nell'esposizione, mi sembrava che non avesse delle difficoltà in qualche maniera di relazione, sì. E ci diceva che preferisce i colori solari, ma il suo colore poi è il blu, e il blu è un colore relazionale. Il blu è proprio un colore di partecipazione, di sentimento, il blu è proprio un colore che lega gli animi, ecco, è stato associato ad una infinità di cose. Poco fa citavo una cosa classica che è il blu Madonna, e più legame che nel blu Madonna, ma anche tutti i colori, molto spesso i colori sociali sono blu, se noi pensiamo ai colori proprio dell'aviazione, ai colori di marinaia, cose di questo genere, è un tipico colore da divise, il colore blu, certo. È un tipico anche colore che fa legame. Anche le macchine blu, aggiunge il dottor Scialdoni. A proposito di blu. Sì, perché c'è sempre questa sovrastratificazione che è terribile nel simbolismo, perché il blu è un colore di legame, ma è anche un colore, come dire, che facilmente crea nicchia, che facilmente crea anche occultamento, donde le macchine blu in qualche modo, che sono di un blu non sgargiante e vistoso, ma sono di un blu molto riservato. Molto comunque dipende dopo dalle gradazioni. Del colore, c'è tonalità. Voglia di colore, lo leggo dai messaggi degli ascoltatori che mi scrivono al 349-238-6666, e Roberto mi scrive Nicoletta, ma qua ci sono 20 gradi in Liguria e sembra primavera, colori accesi e intensi. A volte la luce, quando, a proposito di, per vedere i colori accesi e intensi c'è bisogno di luce, per dottor esempio, Scialdone. Quando scegliamo una stoffa, la portiamo fuori in strada. Sì. È vero, deve essere così. Perché quanti più colori o quante più lunghezze d'onda stimolano l'oggetto che stiamo guardando, tanto più diventa ricca la tavolozza che noi percepiamo, e quindi il colore diventa più sfumato, vediamo più, come dire, nuance di colore. Se guardiamo invece i colori con le luci fluorescenti piatte che ci sono nei negozi, non certo. Riusciamo a vedere tutte le differenze. Ma i colori, al di là che lei ci ha detto, e mi stanno già scrivendo, di fare questa sorta di test con il rosso e il verde per vedere se siamo più tendenti alla miopia o più ipermetropi, i difetti visivi condizionano la nostra percezione dei colori? Beh, certo, in questo senso sì, evidentemente i miopi tendono, o in generale, se si vuole essere un po', come dire, ottimisti nei confronti della vita, si cerca di scegliere i colori più sgargianti, che noi vediamo, interpretiamo come più brillanti. Quindi gli ipermetropi cercheranno di scegliere la fascia di colori più blu-verde, e i rossi, invece i miopi, quelli più giallo. Dottor Widman, ci dà rapidamente un significato? Abbiamo parlato del blu, ma noi ci vogliamo anche concentrare sul rosso e il verde, che sono questi due colori che abbiamo usato come una sorta di autotest per valutare il nostro benessere visivo, lo dico tra virgolette. Rosso, noi solitamente si dice rosso passione, verde speranza, è davvero così? È anche così, anche. Perché il problema dei colori, del significato dei colori, è che viene sopradeterminato anche dal punto di vista culturale. Prima è stato detto con grande acutezza che il colore appartiene al concetto delle cose. Ora, per noi per esempio è difficile avere un'idea del rosso senza che ci risuonino in background espressioni come codice rosso, allarme rosso e cose di questo genere. Quindi il rosso è sicuramente un colore dalla reazione pronta, un colore attivo, ma è anche un colore immediato, è un colore proprio di prontezza, un colore molto, molto vivace. Da questo punto di vista il verde invece è un colore sicuramente più, potrei dire più statico, è un colore più stazionario. Il verde consente delle reazioni più pacate, per così dire, delle reazioni più misurate. Il rosso è proprio immediatezza. Il verde, per l'appunto, è il colore del via libera, non è il colore dello scattare, non è il colore dello slancio. Certo, si può scattare, che so, in una gara, in una competizione, quando c'è il semaforo verde, ma il colore scattante, il rosso, il verde è colore più pacato. Ma più se, pacato se mi cui... posso sì. permettere, forse all'origine potrebbe esserci anche una correlazione con alcuni pericoli. Il rosso è il colore che brucia, è il colore da cui stare attenti perché altrimenti mi faccio male, quindi sia le fiamme. Il verde invece calma, soprattutto dalle 11 a mezzogiorno, regala benessere con il nostro numero verde 800 24 00 24. Ci chiama Andrea da Milano. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. L'opportunità e complimenti. Senta, io dico questo, sono daltonico cronico, tra virgolette, me ne sono accorto già alle elementari quando facevo i tetti marroni piuttosto che i tronchi rossi. Sì. E, oddio, poi nella vita cosa mi ha pregiudicato? Il fatto che ho avuto un declassamento in sede di selezione per fare l'ufficiale. E poi nella vita quotidiana il fatto che spesso vado a comprare degli abiti e devo chiedere aiuto perché sennò faccio dei disastri. Infatti il mio armadio è quasi monocromatico, anche se poi i colori vivi accesi. E poi le calze, io non so perché quando sento parlare, le ho tutte nere. Le ha tutte nere, no, perché... Ma lei è un deuteranope? Deuteranope sembra il nome non è andato di un... a fare dei test così per soddisfazione. Sembra il nome di un dinosauro estinto. No, probabilmente guardi, puntualmente mi arriva quando faccio il rinnovo della patente. Senta, ma lei che colori confonde? Tutti o solamente quelli scuri? No, assolutamente no. Soprattutto delle tonalità che vanno dal verde scuro al marrone scuro e al rosso scuro. Quindi io in questa fascia di colori ho dei grossi problemi. Come si può fare? Imparare gli oggetti che sono di quel colore lì, non c'è altro? Scusate se vi interrompo, ma la tecnologia attuale non ha ancora trovato nulla per poter intervenire a livello di retina, piuttosto che un occhiale particolare. Oggi con la nanotecnologia non si risolve questo problema. Ma vede, il problema è che perché il colore non fa parte dell'oggetto, ma fa parte del nostro cervello, della nostra retina. Quindi qualsiasi cosa noi mettiamo tra l'occhio e fuori alteriamo la percezione, ma il problema è che lei ha un difetto dentro di sé, capisce? Quindi è questo il vero problema, ci vorrebbe una terapia genica che oggi ancora non c'è. Un difetto, un altro modo di vedere la vita a colori, direi. Certo. Grazie Andrea. Essere e benessere. I colori ci fanno stare bene, ci condizionano, ma danno anche informazioni sulla nostra salute. La prima cosa che guardavano i dottori una volta era il colore della lingua e quello della sclera, il bianco degli occhi. I colori li osserva anche la medicina tradizionale cinese. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Maurizio Corradin, medico, esperto di medicina cinese e direttore del comitato scientifico di Lefei Resort, nonché collaboratore esperto del nostro Daily Lab. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a te e a tutti. Allora, ci diamo un occhio ai nostri colori? Certamente, per la medicina cinese ai colori corrisponde un movimento di energia, un animale simbolico, un periodo della giornata, dei sogni, dei sentimenti, delle energie esterne, delle stagioni. Quindi il colore è un simbolo che permette all'individuo di interagire con l'ambiente. In particolare ci sono 5 di questi colori fondamentali, ovviamente con tutte le gradazioni intermedie, che sono il verde, il rosso, il giallo, il bianco e il nero, e ciascuno di questi ha delle caratteristiche e delle caratteristiche appunto che sono esclusive. Ad esempio, per i soggetti a cui piace particolarmente il colore verde per noi è il movimento della natura, il colore fondamentale della natura. Talvolta dal punto di vista psicologico, i soggetti che amano molto questo colore hanno, sì, un senso di timidezza, tendono a vivere un po' nel mondo dei sogni. Per dirti, il colore verde sta in un animale simbolico che è il drago verde, che è il passaggio, noi diciamo, fra la terra e il cielo, è la cavalcatura del cielo, cioè sono individui che tendono a spostarsi verso l'intuizione, che tendono a spostarsi. Insomma, ma fate un po' il mio profilo, io adoro il verde, dottor Corradini. Senta, dottore, ci aiuta a capire rapidamente, a passare in rassegna, abbiamo detto, dalla testa ai piedi, dove l'occhio della medicina si posa per vedere il colore dei nostri occhi, del colore della nostra lingua, magari dell'incarnato, proprio due indicazioni flash. Certamente, intanto per noi è fondamentale il piacere di stare in un determinato colore, però poi i colori vengono apprezzati particolarmente in diverse zone del corpo, quindi il colorito del viso, questo per noi è particolarmente importante, il viso è l'espressione, sul colorito del viso si vede l'espressione del nostro modo di stare. Pensa che i classici proprio sottolineavano che l'apprezzamento del colorito spetta solo ai grandi medici, perché attraverso questo si può vedere lo stato della malattia, quindi, o comunque lo stato energetico di una persona, quindi dal colorito pallido, particolarmente perché è grigetto, verdognolo? Per qualcuno che è, sono due colori diversi, per coloro che sono un po' grigetti sul viso corrisponde quello che noi chiamiamo il vuoto di Jing, potremmo tradurlo in modo occidentale come eccesso di stress. Invece i soggetti che sono tendenzialmente un po' verdini nel colorito del viso tendono a essere soggetti molto collerici o al contrario nervosi, cioè a trattenere dentro di sé le diverse tensioni. Guardiamo anche la lingua, il colore della lingua, rosa. Certamente, il colorito della lingua è in grande relazione, noi quando poniamo una diagnosi energetica, oltre a questo colloquio, oltre alla presa dei polsi, tendiamo a guardare il colorito della lingua, quindi un colorito della lingua pallido tende ad essere quello che noi diciamo vuoto di yang, cioè vuoto di energia, è un'energia molto superficiale, è un'energia che è quella che è prontamente disponibile, che ci difende eventualmente anche dalle aggressioni esterne. Al contrario, se la lingua è molto arrossata, può dipendere da due grandi caratteristiche: o un soggetto pletorico, obeso, specialmente se c'è un po' di patina giallastra, oppure al contrario nei soggetti più avanti con l'età. Tende ad essere una lingua asciutta e rossa, che ci indica che il soggetto ha consumato l'energia più profonda, quella che noi chiamiamo energia in. Certo, dottor Scialdone, vengo da lei perché poi per capire qualche cosa di più del colore dei nostri occhi, della sclera, a volte non è così bianca, no, ma alcune persone mi stanno segnalando che vedono nella sclera delle specie di piccole escrescenze gialline, le descrive Diego a proposito di colore. Le escrescenze gialline sono tipiche dell'età medio avanzata, si chiamano pinguecole, sono delle piccole degenerazioni superficiali. Però a questo proposito c'è da osservare come quando vediamo i nostri occhi un po' opachi, meno brillanti, quando non ci sentiamo bene, quindi non so se sia molto, diciamo, probabilmente anche tradizionale cinese, ma è un aspetto in cui ci sono, diciamo, delle cose che cambiano nel quando colore, sono nei brillanti, lucenti, vuol dire che stiamo bene, anche le nostre emozioni ci sono. E come oculista che indicazione ci dà? le dobbiamo controllare ogni tanto? Beh, soprattutto direi che quando manca un riflesso brillante, soprattutto alla cornea, direi che forse magari è il caso di farsi vedere, soprattutto per persone che hanno lesioni. A proposito, approfitterei di una cosa, di colori occhiali, già che ci siamo, l'uso di un occhiale giallo-arancio. Aiuta le persone che sono ormai tantissime con una maculopatia, un problema alla retina, a vedere meglio contrastato e orientarsi meglio fuori quando vanno in giro. Quindi il colore, vede che ci aiuta ovunque. Dottor Corradin, vuole lasciarci con un messaggino? A questo punto volevo ricordare proprio quanto diceva il collega un istante fa: la lucentezza degli occhi, la brillantezza del colorito della pelle sono le due caratteristiche fondamentali per avere lo shen, noi diciamo per avere lo spirito e la leggerezza nella vita. Se impariamo ad essere un po' meno giudici con noi stessi e un po' più tolleranti, un po' più ampi con noi, avere un rapporto più largo non solo con gli altri, con il mondo che ci circonda, ma specialmente con noi stessi, anche la brillantezza degli occhi ne guadagna moltissimo. Grazie al dottor Corradin. Non potevo parlare di colori senza invitare il dottor Attilio Speciani, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, lanciamoci un messaggio colorato. Un messaggio colorato. Io quando parlo di colori mi viene sempre in mente il consiglio che lei ci dà sempre quando viene qua a trovarci: vivo verde colorato. Assolutamente, crudo, vivo e colorato, che ci sta bene. Poi adesso che abbiamo sentito i colleghi parlare dell'arancione, ma proprio velocissimamente devo dire, perché so che siamo in chiusura, ma l'arancione, dai cachi, la zucca in questo periodo, una fonte energetica fantastica, e una situazione in cui il beta carotene non fa benissimo, per cui abbiamo veramente queste cose dolci, meravigliose, me ne mangio belli, li lascio fuori e così li mangio belli freschi al mattino, neanche in frigorifero, perché ormai andiamo sul freddo. La zucca, che bisogna sapere che oltre ad essere arancione ricchissima di vitalità, non ingrassa perché un indice glicemico basso, e poi abbiamo anche un paio di colori, dai belli, il rosso e il bianco, che si bilanciano, i finocchi da una parte e i radicchi. Se uno va dal verduriere e trova i radicchi, ce ne sono di tutti i tipi in questo momento, vale la pena solo di assaggiarseli, cotti, crudi, tagliati in tutti i modi possibili. Sto facendo una pasta integrale buonissima con del radicchio, lo consiglio a tutti perché è colore e vita, dai. Ci viene fame. Dai. Grazie al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, e anche naturalmente un nostro esperto del Daily Lab. Dottor Widmann, vorrei lanciarle una proposta, e vorrei lanciarla anche ai miei ascoltatori da seguire. Ci stiamo tutti preparando al Natale. Se noi chiedessimo il clima natalizio, che è ormai imminente, per ciascuno di noi, di che colore è? Che colore daremo alle nostre emozioni di questo periodo? E poi ci sentiamo, magari anche riprendiamo questo tema, ci scriviamo sul nostro profilo Facebook e lei ci dà un po' una mano a gestire questi colori, queste luci che ci circondano, a volte ci stordiscono, a volte invece ci tirano proprio su il cuore. Che dice? Volentieri, allora, sarà un modo per sapere come ciascuno di noi interpreta questa atmosfera natalizia. Allora vi lascio il clima natalizio per te, ascoltatore di Essere Benessere. Di che colore è? Che colore daresti alle tue emozioni in questo periodo? Dottor Sceldone, grazie. Noi faremo il test del rosso e del verde. Stiamo per partire, per molti inizieranno le sciate in montagna. Il colore per gli occhiali da sole per la montagna, sicuramente molto scuro, più marrone per i miopi, un po' più verde per gli ipermetropi. E per oggi è tutto. Io spero che con questa puntata di essere riuscita a portare un po' di colore almeno in quest'oretta, e io vi aspetto come sempre a domani. Grazie al dottor Sceldone, grazie al dottor Widmann, grazie a Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Essere e benessere.